Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Compro il biglietto. Catania-Genova 17.000 lire. Mi sono rimasti solo 4.000 lire per tutto il viaggio. Fortuna che i miei cognati mi hanno regalato 3.000 lire, altrimenti non avrei avuto una lira in tasca. Una storia al giorno è quello che facciamo in questo programma. Voi siete qui ogni giorno alle 16, racconta il pezzo di una vita che viene condivisa, il pezzo della vita di una persona che ha voglia di raccontare quella piccola parte della sua vita, un piccolo episodio della sua vita che condivide con tutti e che risponde alla domanda, diciamo, dove sei tu, dove ti trovi? Ecco, io sono qui. Voi siete qui, fa questo tutti i giorni. Da qualche tempo noi ci siamo incontrati quasi casualmente, proprio per strada direi, con un posto magnifico, con un paese magnifico, è un'organizzazione magnifica, che è l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, appunto al confine tra l'Umbria in Toscana, ma al confine con l'Umbria. È un posto magnifico dove un po' di persone molto in gamba hanno deciso di raccogliere la memoria scritta di questo paese, la memoria scritta nascosta nei cassetti di questo paese. L'archivio dei diari fa questo, raccoglie le testimonianze dirette della vita delle persone che hanno preso degli appunti, si sono scritte delle cose riguardo la loro vita, magari due pagine, c'è un lenzuolo addirittura dove è stata scritta la vita di una persona, loro le prendono e le raccolgono, lo fanno da diversi anni, mi pare quasi 30 anni, poi ce lo dirà meglio Nicola Maranesi più tardi, e stanno creando veramente una grande memoria collettiva di questo paese. Noi non abbiamo questa aspettativa, quello che facciamo è cercare di creare una mappa di storie attraverso questi anni di messa in onda. Ogni tanto però, vi dicevo, ci incontriamo e mettiamo insieme le nostre forze. Oggi è uno di quei giorni, oggi vi chiedo davvero, ogni tanto lo faccio, oggi vi chiedo di fare un pochettino più di attenzione del solito, perché la storia che stiamo per raccontarvi, che è la storia di Antonio Sbirziola, è stata scritta diversi anni fa, lui l'ha vissuta, aveva 12 anni ed era il 1958. È la storia di un viaggio in treno, non è nulla di che, ma nonostante siano quanti? 70? Quanti anni sono? Il 58 sono, forse il 2008 sarebbero 60, sono poco più di 60, vabbè, è del 58 questa storia, quindi non sono 100 anni fa, sono poco più di 50, sono 54 anni esatti, eppure sembra arrivare da un'altra epoca. La cosa però che racconta questa storia, certo la storia di una persona che lascia il suo paese a 12 anni, il suo paese nel cuore della Sicilia che è Butera, in provincia di Caltanissetta, per andare a Genova, è in realtà la storia di un sacco di persone che lasciano il loro paese per venire in Italia. In questo estratto della storia di Antonio Sbirziola c'è però un esempio di tutto quello che si lascia. È proprio il momento in cui lui sta per partire. Vi dicevo, lo sforzo che vi chiedo di fare è che Sbirziola l'ha scritto nell'italiano che conosceva all'epoca, e quindi è un italiano, è il suo italiano, che è misto tra l'italiano e il siciliano, e soprattutto è un misto tra l'italiano e il siciliano parlato. Quindi io farò il possibile, lo sforzo che vi chiedo di fare è statemi dietro. È il 28 giugno del 1958. Io alla sera saluto a tutti gli zii e parenti e i miei amici. Alla mattina, alle ore 4, prendo l'autobus per andare a Catania. Mamma, papà, le mie sorelle con i miei fratelli e cognati mi accompagnano alla fermata dell'autobus. Io ho due fagotti in mano, ho dei panini in uno e dell'altro un regalo per i zii che mamma ce lo manto per affetto di sorella. I miei cognati mi regalano 3.000 lire. Ho in tutto 23.000 lire in tutto. Per il viaggio Butera-Catania costa 2.000 lire. Io abbraccio a tutti e salisco sull'autobus. Arrivo a Catania e sono pentito di avere partito. Ho lasciato ai miei genitori piangendo. Arrivo che sono le ore 8 di mattina. Il treno che sarebbe la freccia del sole parte alle ore 9. Non c'è tanto tempo da perdere di fare la decisione di partire oppure di ritornare a casa. Però ritornare a casa è una vergogna per me. Decido di proseguire la mia avventura. Compro il biglietto, Catania-Genova 17.000 lire. Mi sono rimasti solo 4.000 lire per tutto il viaggio. Fortuna che i miei cognati mi hanno regalato 3.000 lire, altrimenti non avrei avuto una lira in tasca. Salisco sul treno che è stato formato a Siracusa, tutti gli scompartimenti sono pieni. Rimango all'impiedi, spero di non farmi tutto il viaggio all'impiedi. Il treno parte verso il nord Italia. Per me è la prima volta che vedo il treno passeggero la motrice del treno elettriche e le carrozze del treno. Mi sembra qualche cosa estranea. Da me stesso, dico, io sono assai indietro nella mia vita. Vedo cose che non ho mai visto. Il treno percorre in una grande velocità. Io guardo nel finestrino, vedo le coltivazioni di agrumi, alberi di frutta e contadini che lavorano. A Taormina vedo le persone che si fanno il bagno. Incomincio a vedere cose che non ho sognato mai. Si arriva a Massina. Nel finestrino vedo la nave traghetto, che il treno entra nella nave. Queste cose le guardo con gioia e me ne sto zitto di gioia. Il traghetto parte. Quasi tutti i passeggeri saliscono sopra, io le seguo. La prima cosa che faccio, però, mi scrivo il numero della scala. Come salisco, vedo la sala con il ristorante, assai affollato. Guardo cosa ventono nel bar, c'è il bene di Dio. Guardo i prezzi, sono troppo cari per comprare da mangiare. Ci sono le bevande esposti, non so i prezzi, non comprerò niente. Esco fuori per guardare cosa c'è che si vede. La prima cosa che vedo è la statua della Madonna, che è abbastanza alta. Mi faccio il segno della croce. Però mi sono dimenticato di chiederle la grazia di aiutarmi della mia avventura che sto percorrendo. Vedo le navi che sono attaccate al porto. Sono assai meravigliato di quanto ho visto e di quello che sto vedendo. Il traghetto arriva a Villa San Giovanni, io cerco il numero della scala e scendo. Trovo la carrozza e trovo la mia valigia. Alcuni passeggeri scendono e io mi trovo il posto da sedermi. Mi sono stanco di stare all'impiedi. Prendo un profondo respiro di avere trovato il posto. Il treno parte verso il nord Italia. Vedo le montagne della Calabria, di come sono alte. Io mi credevo che le montagne sono solo a Butera. Questa è la mia ingenuità della mia vita, passata in un piccolo paese di campagna. Il treno cammina, vedo i contadini che lavorano, che zappano, anche le donne lavorano, che si vede chiaro e di come lo vedo io. Tutti che si sacrificano del lavoro. Io questo non l'ho pensato mai. Lo vedo io adesso di come la vita sacrificata. Mi faccio una discussione da me stesso e dico in me: Antonio, fatti coraggio, che troveremo la vita con difficoltà e per qualsiasi cosa dovremo lottare. Alle ore 6 di mattina il treno arriva a Genova Principe. Scendo del treno e cammino alla direzione che tutti i passeggeri si avviano. Arrivo fuori della stazione ferroviaria. Guardo in giro se vedo a zio Nunzio, non c'è nessuno. Aspetto fino alle ore 9 e non lo vedo. Vedo i telefoni pubblici, però non ho mai telefonato, non so come adoperarlo. Appoggio la mia valigia vicino al telefono. Guardo di come loro adoperano il telefono. Vedo che mettono la moneta rotonda. Dopo che un signore ha finito di telefonare, gli dico: scusa signore, dove posso comprare la moneta per il telefono? Risponde: i gettoni le puoi comprarli nel tabaccaio per 50 lire l'uno. Le rispondo: grazie tanto. Vado nel tabaccaio e compro un gettone. Faccio il numero e rispondono. Sento la voce, però non capisco niente e mi chiudono il telefono. Vado a comprarmi un altro gettone. Mi rispondono e io, per essere sicuro, le dico: io sono Antonio Sbirziola e mi trovo a Genova Principe. Lui si mette a parlare e non le capisco niente. Le dico: aspetta un minuto. Chiamo a un signore che passa, le dico: scusa, può parlare lei al telefono che non capisco quello che dicono? Lui fa un sorriso e mi dice: sì, rispondo io. Come risponde, le dice: parlo sotto nome di un giovane che ha difficoltà di parlare al telefono. Lui si trova a Genova Principe, alla stazione ferroviaria. Mi chiede: com'è il tuo cognome? Rispondo: Sbirziola Antonio. Il suo nome è Sbirziola Antonio, cosa le devo dire a questo giovane? Come finisce di parlare, mi dice: prende il taxi, le presenta l'indirizzo che lui ti porta e tuo zio ti aspetta a casa. Lo ringrazio di vero cuore di avermi aiutato. Metto la valigia in un angolo e vado a chiedere all'autista del taxi. Mi avvicino, le dico: per andare a questo indirizzo quanto mi costa? Risponde: ti costa 4.000 lire compreso il ritorno. Guardo in tasca, ho solo 4.000 lire. Mi metto a pensare: io ho solo questi soldi, le do a lui e dopo non ho soldi. Fermo un signore, le dico: scusa, per andare a questo indirizzo è lontano per andare a piede? Risponde: a piedi è lontano, però puoi prendere il pullman che costa solo 50 lire. mi mostra con il dito. Lì puoi prendere il numero 3 che ti porta davanti alla porta. Le dico tante grazie. Prendo la valigia e vado alla fermata. Mentre che aspetto passano due paesani. Loro mi conoscono prima che io le riconosco a loro. Mi chiamano: Antonio, cosa fai qui? Le rispondo: sono venuto a cercare lavoro. E dove vai adesso? Le dico: a casa di mio zio Nunzio. E loro mi dicono: Antonio, vieni, andiamo che ti accompagniamo noi. Le chiedo: e come andiamo? E lui risponde: a piede. Le dico: c'è il pullman che va fino davanti alla porta, il numero 3. Lui risponde: costano troppi soldi, andiamo a piede. Prende la valigia e ci mettiamo a camminare. Incominciamo a salire sulle scalinate. Sai cortili, chi ruba chi lotta, chi ha fatto la spia, na na na na na na na na na na. Ma il cielo è sempre più blu, e il cielo è sempre più blu. Era il 1958, erano esattamente 56 anni fa, era l'altro ieri praticamente, poteva essere mio nonno, vostro nonno, dipende dall'età, vostro padre o il vostro bisnonno. Antonio partiva da un paese che si chiama Butera, o Butera, vi chiedo scusa, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia, aveva 12 anni e raggiungeva giovane, raggiungeva Genova, perdonatemi, era il viaggio iniziatico della sua vita. Di lì sarebbe arrivato al nord Italia e poi dal nord Italia avrebbe raggiunto un altro paese ancora più grande, che è l'Australia. Per raccontare la storia di Antonio facciamo una chiacchierata con Nicola Maranesi, che è un collaboratore dell'archivio dei diari, da dove arriva sostanzialmente questa storia. Pronto, Nicola? Ciao Matteo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, come stai? Gli amici di Radio Etiquette, benissimo. E anche benissimo. Agli amici dell'archivio dei diari, visto che ci siamo e che ci siamo incontrati un po', dicevo, un po' per strada sostanzialmente, voi ascoltando, noi conoscendo il lavoro che facevate, quindi abbiamo deciso di condividere un po' di cammino insieme, anzi vi ringraziamo per le storie che ci mandate, tra l'altro arrivano un sacco di messaggi che trovano meraviglioso questa storia. Ho fatto un po' di fatica a leggerlo perché è scritto in una sorta... Nicola, come si definisce questo tipo di scrittura? Ha una definizione? Beh, no, ma è una scrittura spontanea, è la scrittura di Antonio Sbirziola, credo forse lo sbirziolese potrebbe essere al massimo. Ecco, perfetto, quindi già avevo cannato anche, non è Sbirziola ma è Sbirziola. Tra l'altro, Nicola, Antonio Sbirziola è ancora vivo? È ancora vivo, lui vive in Australia, a Sydney, ed è un grandissimo amico dell'archivio dei diari, con il quale intrattiene rapporti in tutti i modi possibili, soprattutto sui social network. Quanti anni ha adesso lui? Lui è del 42. Adesso ci mettiamo a fare calcoli tutti quanti. 42, 2012, beh, 70 anni. Sì, sì, ma portati in una maniera strepitosa. E sta in Australia, quindi lo sentite, avete modo di... È stato mai a Pieve Santo Stefano? Come no, lui viene spesso, quasi tutti gli anni, a settembre, in occasione del premio annuale che l'archivio riserva alle scritture autobiografiche, che lui ha vinto nel 2006, viene a trovarci e sta con noi, ed è una presenza magnifica. Tra l'altro possiamo dare anche il titolo del libro da cui è tratto il tutto, si chiama Un giorno è bello e il prossimo migliore, giusto? Questo è il libro con cui lui ha vinto il premio Pieve nel 2006, okay. Al quale è seguito poi un altro libro dal quale... È tratto questo racconto qua, che è Povero, onesto e gentiluomo. Esattamente. Un emigrante in Australia dal 1954 al 1961. Come è arrivata? So che vi arrivano nella maniera più incredibile le storie e i diari. Questa, nella fattispecie, come è arrivata, Nicola? Le storie, soprattutto quelle di immigrazione, arrivano, ecco, appunto, capita che conoscano il nostro archivio tramite i giornali, tramite la radio, insomma, anche tramite voi, e chi ha avuto una storia di immigrazione decide poi di ripercorrere la strada di chi l'ha preceduto e invia una storia all'archivio dei diari. Noi sappiamo quando Sbirziola scrive questo diario, cioè lui lo scrive in tempo reale in quegli anni, oppure un bel giorno si mette lì e si ricorda un po' tutta la sua vita? No, lo scrive da adulto, il percorso che lui fa per arrivare alla scrittura è successivo, diciamo, non ha svolto degli studi molto approfonditi, ha un'erudizione di base Antonio, quindi arriva in una fase successiva alla pratica autobiografica. Lui tra l'altro è stato ferroviere, giusto, in Australia, poi ha fatto una vita da ferroviere. Lui è consapevole dell'importanza, cioè lui ha semplicemente scritto una cosa perché ha voglia di scriverla e basta, oppure si rende conto di quanto, di che cosa racconti una storia come la sua? Lui ha, così come nella vita, ha voglia di migliorarsi sempre e di fare cose incredibili. A un certo punto decide di scrivere e crede di dover lasciare una testimonianza importante. Sì, io credo che lui abbia questa percezione. Tra l'altro c'è un aspetto che trovo interessante, che più di una volta, almeno 3, 4, 5 volte, lui, quando parla di quello che sta facendo, io parlo di queste due pagine che abbiamo letto, no? Quindi dalla partenza da Messina, il traghetto, poi il treno, ma anche quando arriva a Genova e si sposta dal telefono ai taxi, lui cita sempre il suo bagaglio, cioè è come se quella roba lì fosse casa sua, no? Per cui la mette sempre dentro, prendo il bagaglio, sposto il bagaglio, me lo porto con me, lo porto vicino alla, lo lascio in un angolo, ritrovo il bagaglio, che è chiaramente è casa sua quello, no? Lui ha 12 anni, ricordiamocelo, porta casa sua in giro per il mondo. Hai detto una cosa giustissima, dentro quella valigia di cartone c'è tutto il mondo che lui si porta dietro, e come capita a tantissimi altri migranti italiani che, come hai ricordato bene all'inizio della trasmissione, erano tali fino a pochissimi anni fa. Sì, guarda, poi tra l'altro, appunto, noi adesso tendiamo ad accogliere le persone che arrivano, e probabilmente leggere una storia così ti fa pensare che quando arriva quello con le rose, che gli vuoi dire no, guarda, per piacere, le rose, ti prego, ma no, guarda, è già venuto il tuo amico, no, davvero, guarda, e ti dici perché non l'ho presa quella rosa, ce l'avevo qua per testimoniare, invece gli ho dato solo un euro, prossima volta prendo la rosa così nessuno mi dà più fastidio. Magari viene in mente una storia come questa, e questi probabilmente hanno fatto viaggi di questo tipo, se non peggiori, probabilmente perché non hanno preso un treno o chissà. Senti, Antonio Sbirziola, noi ci ripromettiamo di sentirlo in futuro, Nicola, perché insomma, questa collaborazione che noi vorremmo portare avanti con voi, insomma, ci piacerebbe anche svilupparla, e quando i testimoni e gli scrittori dei loro diari sono ancora vivi, come nel suo caso, noi vorremmo riuscire a sentire lui e in futuro anche gli altri. Nicola, prima di chiudere, mi racconti di nuovo la storia del diario scritto sul lenzuolo che avete a Pieve Santo Stefano? Bellissimo, sì, il diario Lenzuolo di vita di Clelia Marchi, che è una contadina che proveniva dalla provincia di Mantova, e che ha portato un giorno, tanti anni fa, all'archivio dei diari il suo diario, tenuta con sotto braccio un enorme lenzuolo sul quale aveva scritto tutta la storia della sua vita, dal momento in cui era venuto a mancare l'uomo della sua vita, suo marito, che era sposato da giovanissima, nel momento in cui il marito viene meno, lei, che era una grandissima scrittrice di autobiografie, una notte dentro casa, non trovando un pezzo di carta, decide che comunque vuole cominciare a raccontare la sua vita con... E lo fa su un lenzuolo. Io ringrazio moltissimo Nicola Maranesi, che è collaboratore dell'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano. Archiviodiari.org è il vostro sito, mentre per visitare l'archivio, quando ci sono degli orari di apertura, ci sono dei giorni particolari? Sì, lunedì, venerdì, in orari, diciamo, da lavoro, mattina e pomeriggio, ma tutte queste informazioni le trovate sul sito, ovviamente. Nicola, grazie ancora. Grazie a voi, Matteo. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. E la storia che avete appena sentito di Antonio Sbirziola, adesso posteremo tutto sul nostro profilo Facebook, così trovate di più, poteva essere in teoria una storia di viaggio, una di quelle che stiamo chiedendo per il mese di luglio. Voi siete qui, @radio24.it, ma poteva anche essere una storia d'avventura. Se voi ce l'avete, non dovete per forza essere stati dei migranti a 12 anni nel 1958. Se avete una storia di viaggio, se avete una storia di avventura, ma anche una storia che parla di mondiali o una storia che parla di guerra, inviatecela. Voi siete qui, @radio24.it. Noi le mettiamo insieme, e questa è stata a luglio, ci facciamo tutto il mese. Grazie ancora a tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata: Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleone, grazie di nuovo all'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, ma grazie soprattutto ad Antonio Sbirziola, perché la storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Gloriana, Milli, Serenella, eccetera eccetera eccetera. Abito a Formia, ma sono originaria di Cortemaggiore. La storia di domani parlerà proprio dei miei nomi e della difficoltà che mi hanno creato nella vita. Questa è la mia storia, e io sono qui per voi.